Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. ...234 appuntamenti con il soundcheck abbiamo realizzato, mio caro Francesco Tromba. Buonasera a tutti voi in contatto con Radio 24, benvenuti, ben ritrovati alla prova del suono qui dal Groove Master Studio, pronti per affrontare una giornata speciale per noi e sicuramente speciale per tutti gli appassionati di musica che attendevano da tempo la pubblicazione del nuovo album di una star del jazz ormai da diversi anni, la meravigliosa Didi Bridgewater. Sì, anch'io sono molto emozionato da quando appunto mi hai detto che c'era questa possibilità di fare un'intervista a Didi Bridgewater. Ero veramente elettrizzato. Ecco, tutto questo succederà dopo le news delle 20, augurandoci che la linea internet sia dalla nostra parte, perché stanno arrivando tantissime email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it e come ben sai la banda si restringe quando ci sono più collegamenti attraverso la rete. Sì, poi anche la nostra connessione non è veramente fantastica. Non è speciale, sì, perché noi abbiamo la nostra sede operativa in mezzo alla campagna e quindi lavoriamo con una linea internet via satellite. Sì, quindi ogni tanto c'è qualche problema. Quindi già con la messa in onda del programma più Skype staremo a vedere che cosa succederà, ma siamo pronti per affrontare il tutto, per affrontare una bellissima conversazione con Didi Bridgewater, mia cara amica ormai da oltre 30 anni. Guarda un po' quanta discografia di Didi Bridgewater ho collezionato nel tempo. C'è un vinile in cui lei è praticamente... Un vinile, quello è il primo album realizzato da Didi Bridgewater quando aveva forse poco più che 20 anni. Sì, del 74 se non sbaglio. Del 74 e l'ho comprato a Tokyo in Giappone, infatti come vedi ho conservato anche il cellophane originale con tutti i credits in giapponese. Pensa tu. Allora sì, Didi Bridgewater sarà dei nostri a partire dalle 20 dopo le news di Radio 24, ma direi di dare il via alla musica proponendovi ancora una volta, a grande richiesta, lo posso dire? Sì, a grande richiesta, perché sta diventando una vera e propria star. Lì in Inghilterra, anche se lui è americano. Sì, è americano di Portland. Di Portland, questo polistrumentista, un bel giovanotto anche, il che non guasta. Ha trovato anche lui l'America a Londra, è veramente strano questo e fatto. E quindi di chi stiamo parlando? Vi stiamo parlando del talento di Jared Lawson, polistrumentista, album nuovo che si intitola... In realtà è l'album originario, quello del... Che poi è recentissimo, sì, del no? 2014. 2014. Era passato inizialmente sotto traccia, non era stato considerato. Poi però hai visto, scoperto. Adesso in Inghilterra le radio lo stanno promuovendo utilizzando come nuovo singolo questo brano intitolato Walking in the Park. L'album porta semplicemente il suo nome perché questo è il suo primo album ufficiale. Sì, è arrivato anche secondo questo disco al World Wide Festival di Giles Peterson. Ecco, quindi... come vedi abbiamo buon gusto e naso, a me non manca, sì. Anche fisicamente. Jared Lawson con Walking in the Park qui al soundcheck di Radio 24 in attesa della meravigliosa Didi Bridgewater. Vocalist, polistrumentista, autore, compositore e anche producer di questa sua prima opera ufficialmente pubblicata per un'etichetta importante, Jared Lawson con Walking in the Park, questo ragazzo che si sta facendo notare da qualche anno, anche se non è più giovanissimo. No, ha più o meno 38 anni se non sbaglio. 38 anni, che cosa ha fatto fino ad oggi? Perché non lo hanno lanciato questo ragazzo? Evidentemente ha cercato di affinare proprio al massimo la sua tecnica, il suo potenziale. potenziale artistico. Sì, per poi esplodere in maniera definitiva. Però se ne sono accorti anche il trombettista Farnell Newton. Abbiamo anche parlato di Farnell Newton, attento osservatore del mondo del jazz, ma anche un appassionato di contemporary R&B. Realizza anche lui il nuovo album, e anche Farnell Newton forse è più conosciuto in Inghilterra che negli Stati Uniti. Sì, in realtà lui ha comunque collaborato anche con Prince, per dire uno qualunque, ecco. Quindi, per dirne uno, sì, a caso, sì. Farnell Newton è stato quello che ha fatto incidere per la prima volta Gerard Lawson, potremmo dire il suo scopritore, il suo talent scout. Sì, che viene coinvolto ancora una volta nella nuova operazione discografica, e allora direi di approfittare ancora una volta per ascoltare insieme Farnell Newton con la sua tromba e la partecipazione di Gerard Lawson e Tony Ogier in questo pezzo intitolato Peace Plus Love. It's been the same since the dawn of the dawn. Some of us had no sense of right and wrong. And power is sought to the level of the pawn. Soundcheck, il suono della musica. Se dovessimo stilare un'ipotetica classifica di bassisti elettrici che hanno fatto la storia dello strumento con il loro approccio, la loro musicalità, sicuramente dovremmo mettere Jaco Pastorius in testa, perché ha rivoluzionato lo strumento, Stanley Clark, Marcus, certo. Miller. Ma la prima donna che appare nella classifica è senz'altro Michelin, che è Ocello. Eh sì, è fortissima, ha rivoluzionato negli anni, che erano i primi anni 90 forse. Sì, fine anni 80, primi anni 90, perché il primo disco glielo ha prodotto Madonna per la sua etichetta Maverick, album intitolato Plantation Lullabies, dal quale abbiamo ascoltato questa composizione intitolata Stay, che Michelle presentò a Madonna in formato demo realizzato sul suo 4 piste casalingo. Pensa tu che tempi che erano quelli ora. Eh sì, e Michelle ha realizzato ormai una ventina di album a suo nome, collaborando con i nomi storici da Herbie Hancock, anche con lo stesso Marcus Miller, ha fatto parte degli Rage Factor di Roy Hargrove, e oggi continua a produrre la sua musica, ma anche a produrre musica per giovani artisti. Sì, in un certo senso sta facendo scuola, perché aiuta e collabora con giovani artisti, come dicevi tu, ad esempio con Alan Hampton. Ho sentito una sua intervista in cui ne parlava veramente in maniera entusiastica, soprattutto perché oltre a concentrarsi sulla musica porta particolarmente attenzione ai brani che va a scrivere, quindi proprio ai testi, alle parole, alla poesia anche. E infatti, da attenta lettrice, non si è lasciata sfuggire alcuni anni fa uno scritto interessante intitolato The African Origins of UFO, ovvero Le origini africane degli UFO, una novella scritta da un sognatore come Anthony Joseph, classe 1966, nato a Port of Spain, Trinidad e Tobago, quindi origini caraibiche per questo signore che adesso risiede in Inghilterra, che poi è un poeta, è proprio uno scrittore. Sì, ha anche insegnato all'università, alla London Metropolitan University, quindi un professore anche. Anche musicista, guida la sua Spasm Band, la band dello spasmo. Sì, ha realizzato addirittura 5 album, quindi niente male. 5 album, ma il più recente si intitola Time, è stato prodotto da? Da Michelle and the Gay Set. Allora, vediamo che cosa hanno combinato insieme questo, come posso definirlo, un vocalist in questo caso, ma neanche un rapper, che utilizza spoken words. Sì, è un recitatore. Un recitatore. Eccolo qui, allora, Anthony Joseph, prodotto da Michelle and the Gay cello, l'album si intitola Time, il brano è Hustle to Live, qui al Soundcheck di Radio 24, in attesa del collegamento con Didi Bridgewater. South side of the city, he's on the grind, working from 9 till 9. Sound check. Il suono della musica. Sound della tromba di Theo Crocker in questa versione di I Can't Help It, il successo di Stevie Wonder, Michael Jackson, brano portato al successo da Michael Jackson, uno dei grandi capolavori del re del pop, che oggi viene rivisitato dalle grandi star del jazz come Speranza Spalding, ma anche da Theo Crocker, prodotto da Didi Bridgewater, che qui presta la sua meravigliosa voce. Perché è Theo Crocker e Didi Bridgewater? Perché Didi Bridgewater produce per Theo Crocker un anno fa un album per la Oki, etichetta importante con la distribuzione della Sony Music, e oggi Didi firma un bel contratto proprio per la Sony per questa pubblicazione meravigliosa, un album importantissimo per la sua carriera ma anche per noi. Io non faccio altro che ascoltare Didi's Feathers, questo è il titolo di questo album con il quale Didi Bridgewater insieme alla New Orleans Jazz Orchestra diretta da Irving Mayfield regala il suo tributo alla città di New Orleans. Sì, è un connubio incredibile tra la tradizione proprio di New Orleans e anche un sound un po' più moderno, quindi è proprio l'equilibrio perfetto secondo me dal mio punto di vista. Sì, una carriera poliedrica, quella della bellissima Didi Bridgewater, che ha attraversato, lo devo dire, 40 anni di musica, è diventata una leggenda del jazz, ha vinto 3 Grammy Award, ha vinto i Tony Award per le sue interpretazioni in teatro, ha realizzato tributi discografici a Billie Holiday, alla Fitzgerald, ora Silver, un album sulle origini africane del jazz e oggi il tributo alla città di New Orleans. Sì, possiamo dire che è entrata di diritto per la sua carriera nell'Olimpo del jazz. Assolutamente, e lo merita, tra l'altro ormai da 10 anni produce personalmente tutte le sue pubblicazioni che hanno sempre dei concept ben precisi. Sì, è anche una grandissima comunicatrice, potremmo dire. Sì, ha iniziato la sua carriera come vocalist della big band di Tad Jones e Mel Lewis e poi negli anni 70 ha collaborato con artisti del calibro di Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie. Poi entra in un'etichetta che cerca di utilizzare Didi come artista del pop, però poi dopo la sua permanenza a Parigi si riavvicina al jazz, ed è proprio in quel periodo che io l'ho conosciuta perché la invitammo ad Hoc nell'87 e lì ci fece impazzire e io mi innamorai follemente di Didi Bridgewater. È come non innamorarsi della sua voce, della sua musica. Allora io direi di mettere in onda un brano che proprio è una specie di manifesto di questa pubblicazione, intitolata Didi's Feathers, brano intitolato New Orleans, una composizione di Yogi Carmichael per la voce di Didi Bridgewater e la big band diretta da Irving Mayfield. E quindi, ladies and gentlemen, Didi Bridgewater fra pochissimo su questi schermi dopo le news delle 20 di Radio 24. Now if you've never seen a quaint old southern city, well darling, just think of New Orleans. If you've never seen that town, boy, that's a pity. There's nothing like New Orleans. Sound check. Il suono della musica. E siamo pronti dopo l'informazione di Radio 24, siamo pronti, il collegamento è attivo. Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signori, siamo onorati di presentarvi quest'oggi al Soundcheck la bellezza di una delle vocalist più importanti del jazz contemporaneo. Ormai lo abbiamo detto da 40 anni a questa parte, i tributi a Billie Holiday, Ella Fitzgerald, ora Silver, un album splendido dedicato all'Africa, finalmente un tributo a New Orleans per la regina del jazz, Didi Bridgewater, al Soundcheck. Ciao Didi! Ciao JJ, thank you. I'm very happy to see you. I'm very happy to talk to you about this incredible production. Oh, I'm so happy. I'm happy you like it. I really am. It's a very special project for me. It came out of a developing relationship I have with the young man, Irvin Mayfield, who plays a mean trumpet and is an amazing director of the New Orleans Jazz Orchestra. Sì, è un progetto del quale molto soddisfatta, che è nato per la collaborazione con Irvin Mayfield, eccezionale trombettista di New Orleans, molto impegnato a New Orleans anche con la didattica, leader e direttore della New Orleans Jazz Orchestra. So Didi, this tribute to New Orleans, I think is very important for you. Yes. Well, it is, because number one, New Orleans is the cradle of jazz. Mm-hmm. It's the birthplace of the music, and I am a descendant of this history as a jazz singer. And it's also because New Orleans suffered this terrible Hurricane Katrina 10 years ago, and Irvin and I felt it's time that that we celebrate the resurrection, or the renaissance, if you will, of the city. Ecco, è un progetto molto importante per lei, perché New Orleans rappresenta il credo del jazz, e per lei, che è un artista di jazz, quindi non poteva non realizzare un'opera di questo tipo dopo aver incontrato Irvin Mayfield. E tra l'altro, a 10 anni di distanza dall'uragano Katrina, in qualche modo cercano di ricostruire New Orleans e la storia del jazz per ridare importanza a questa incredibile città. Tell me something about the jazz market in New Orleans. Raccontami qualcosa del jazz market in New Orleans, che è un posto che sta nascendo nella splendida città per celebrare il jazz. The jazz market, the New Orleans jazz market, is a new center that was built at the initiative of Irvin Mayfield and the New Orleans Jazz Orchestra and his board of directors for the orchestra. Irvin thought it was really important that there be a house specifically built for jazz. None existed in New Orleans. È incredibile che un posto dedicato al jazz a New Orleans non è mai esistito, ma finalmente prenderà la sua consistenza prossimamente, diretto da Irvin Mayfield, e quindi finalmente New Orleans avrà un centro dedicato al jazz che racconterà la storia dei suoi protagonisti che arrivano da quella incredibile città. Didi Bridgewater al Soundcheck. So Didi, do you want to introduce the first song? Sure. The first song that we're going to play for everyone is the Tremé song, or Do What You Wanna. And it's a song that came out of a beautiful television series that was done on a network, a cable network in the States, called HBO. And it was a theme song. So Irvin thought it was really important to do that song because Tremé, the area, was really devastated in Katrina. So it's a kind of homage or a tribute to this area in New Orleans called Tremé. Sì, questo brano si intitola Tremé Song, Do What You Wanna, una composizione dedicata a una zona di New Orleans devastata dall'uragano, e questa è la versione di Didi Bridgewater, un brano che in origine è stato realizzato per una serie televisiva. Eccola qui, Didi Bridgewater al Soundcheck di Radio 24. People sashay, past my steps, by my porch, in front of my door. Soundcheck, il suono della musica. Wear them feathers till I'm dead. Hold on steady. Hold on steady. Hold on steady. Hold on steady. E questo è il brano che dà il titolo a questo incredibile album per la Sony Music di Didi Bridgewater, collegata con noi con il soundcheck di Radio 24. Didi's Feathers, le piume di Didi, una ritmica eccezionale, una ritmica che è stata creata per Didi da uno dei più importanti percussionisti di New Orleans, un polistrumentista, Bill Summers. Didi, tell me about the collaboration with the incredible Bill Summers. This was an idea of Irvin also. I know about Bill, but I didn't know Bill. I still don't really know Bill, but I know about his work as a percussionist. He is a man who has really gone back and studied the African drums. And so as there is this whole history coming out of the slavery in New Orleans and the relationship between the French and the Africans after the slavery was abolished, and the fact that, you know, during the slavery period we were allowed to go and play the drums and do our chants in Congo Square, he thought it was really imperative that we have Bill be a part of this. So what Bill did was he laid down several tracks with different rhythms going on, with different drums that he was using and percussive instruments. And when he finished it and we put it together, I was like, oh my God, I need to go in and do the same thing with my voice, which is something I had never done. I've seen people loop before, but I'd never tried this thing. So what you have is, I don't know, this beautiful thing that has happened that I would love to do more of. I would absolutely love to do more of, because it's fantastic. Sì, è fantastico, lo dice anche Didi, si è molto divertita in studio con Bill Summers, che non aveva mai incontrato prima ma conosceva musicalmente. È un'idea di Irvin Mayfield, naturalmente, quella di realizzare un tributo proprio agli schiavi africani che raggiunsero New Orleans e che venivano venduti lì a Congo Square. Didi Bridgewater con Didi's Feathers realizza anche un piccolo sogno, quello di cimentarsi vocalmente in un atteggiamento molto ritmico e percussivo. So Didi, the album is fantastic, and I'm sure, I want to tell you, lo voglio dire a Didi, io sono sicuro che con questo album Didi porterà a casa il suo quarto Grammy Award. I'm sure that you'll win the Grammy Award again with Didi's Feathers. Well, maybe I will and maybe I won't, but you know what, JJ, that's not what's important. For me, what is important is that a larger audience can discover the beautiful music and also through the music discover the city, New Orleans. Ecco, dice che per lei sì, forse arriverà, forse no, ma la cosa non è importante per lei. La cosa più importante per Didi Bridgewater è che la gente attraverso questo disco possa riscoprire nuovamente la bellezza di New Orleans. Didi Bridgewater al soundcheck con One Fine Thing. I'm wondering what it must be like to be you. Can you hear me? Wow, me. Sound check, il suono della musica. Right time, my ancient soul. Right time, make the Congo go. Right time, it burned up the sun. Right time. is a sliver. Un'altra traccia incredibile da Didi's Feathers. Questa seconda parte è completamente dedicata a questo album per la Sony, prodotto personalmente da Didi Bridgewater per riscoprire la bellezza della città di New Orleans. Parlavamo di Congo Square, che era la piazza dove venivano venduti i neri che arrivavano dall'Africa. Didi Bridgewater celebra quella piazza con un brano assolutamente ritmico. I think Didi, naturalmente collegata con noi, I think, Didi, that you have to realize a sort of remix of Congo Square. Deve realizzare un remix. I think so. Okay. Well, we will talk about it and you tell me what you hear. Yeah, absolutely. No, because I know, io conosco dei bravi producer a Brooklyn in New York. I know a fantastic producer in New York. In Brooklyn, a young guy called Ahmed Sirur that will have fun doing a sort of a contemporary remix of Congo Square. Okay. Ne possiamo parlare. Allora, my friend, the journalist, the young journalist Francesco Tromba, wanna ask you something. Okay. You are a goodwill ambassador for FAO, a woman, a mother, and a contemporary jazz and Broadway star. What is your priority? Ecco, è una ambasciatrice della FAO, un artista, una mamma eccezionale e una donna speciale. Qual è la tua priorità? What's your priority now? My priorities are always the same. My family first. Mm-hmm. After my music, the musicians I work with. La famiglia, la musica, I musicisti. The business that I do, and then the public. E naturalmente, sì, il pubblico e l'odio. E io vi consiglio di vedere Didi Bridgewater dal vivo, perché Didi è una forza della natura. Quando la vedi sul palco, mio caro Francesco, ti innamori. Now you know, Didi, I'm in love with you. I'm in love with you. And since we first met, we can tell everyone has to know this. Sì, tutti lo possono sapere che siamo innamorati. Un amore platonico, it's platonic, but anyway, it's pure love. It is. Tu devi sapere, Francesco, tu in che anno sei nato? 1987. Nell'87. So this guy is 1987. He was born in 87. And nel 1980, in 87, I introduced Miles Davis to Didi Bridgewater. Yes. È una storia anche questa. Pensate, tu dovevi ancora nascere e noi eravamo con Miles Davis. Incredibile. So, Didi, hai avuto l'opportunità per questo nuovo album di incontrare Dr. John e realizzare Big Chief. Tell me about this experience. E la voce di Didi è formidabile perché fa il verso a Dr. John. So you tried to sing like Dr. John in the same way. It's beautiful, it's very funny, molto divertente. I hadn't asked Dr. John to be on the CD, and we were just joking around in the studio, and so I tried to do this imitation of his voice. I am the first woman to sing Big Chief. You know, it's a man's song, and it's a big hit for Dr. John. So, you know, after the first day in the studio, Irvin says, you know, Didi, You gotta call Mac. You gotta ask him if he'll be on this on this CD. And I was like, fine, I'll call him, because I've worked with Dr. John in concert. And last year we did a duet for a movie that is going to be coming out at the end of this year with Shirley MacLaine. Mm-hmm. And I don't know. I was having fun, you know. And so I called Mac. And, you know, he said he was tired and that he didn't feel good. And I just pleaded with him. I had a little girl's voice. And I was like, please. And finally he accepted to come in on the third and last day that we were recording. And he laid down his version. And now you have this incredible collaboration. Adesso ha questa incredibile collaborazione con Dr. John, con il quale aveva lavorato dal vivo anche un anno fa. Hanno fatto un duetto per una produzione cinematografica con Shirley MacLaine che uscirà il prossimo anno. Ma in Big Chief, che tra l'altro è la prima volta che questa composizione, che è una composizione che di solito viene cantata da uomini perché racconta una storia assolutamente maschile, è la prima volta che viene cantata da una donna. Ed anche questa è stata stata un'idea di Irving Mayfield di chiamare Mac, ovvero Dr. John, che è arrivato nello studio e quindi si sono divertiti. E noterete in questo brano che Didi Bridgewater fa il verso a Dr. John in Big Chief qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. I got a big fat man who loves me all night long. I ain't talking about got a big fat man who loves me all night long. Show him how. Every time he loves me, it makes my love come strong. I got a big fat man. Got a big fat woman. Got a big fat man. I got a big fat woman. Got a big fat man. I got a big fat woman. Got a big fat man. Got a big fat woman. Got a big fat man. Love me all night long. E vi stiamo raccontando con Didi Bridgewater collegata con noi questa incredibile produzione, un album splendido che sicuramente scalerà le classifiche del jazz in tutto il mondo. Francesco, perché? Per forza, perché è bellissimo, è stupendo, è veramente fenomenale. Sì, tutta la passione per la musica, tutte le origini del jazz di New Orleans, perché a New Orleans non c'è soltanto la musica jazz, ma c'è molta contaminazione. Si sentono influenze di Cajun, Zydeco, c'è il ritmo tipico di New Orleans, il second line, che è così importante proprio per l'essenza dello swing. Didi Bridgewater è collegata con noi, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi dopo Whoopin' Blues siamo costretti a salutare Didi, che presto sarà in tournée. Voglio dire, so you'll be in concert soon with this incredible big band at the New Orleans Jazz and Heritage Festival, North Sea Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, al Barbican di Londra e poi un concerto incredibile nel celebre teatro Apollo Theater in New York City. And I think you have to record this incredible occasion come like James Brown. Yes, we are planning on doing it. So please, Didi, when you'll be on the stage of the Apollo Theater, you have to give a kiss to the stage from me, please. I will. See, you know, I had the opportunity to do a kind of review called Apollo Club Harlem in 2013, in February. And that was the first time that I had ever been on the stage of the Apollo. And it's quite magical. It is quite, what a place, what a space. Now Irvin Mayfield is going to be the artistic director for the Apollo Theater. Incredibile, Irving Mayfield sarà il direttore artistico dell'Apollo Theater, palcoscenico che Didi ha calcato un anno fa, non c'era mai stata, ma torna con questo incredibile concerto per far ascoltare dal vivo tutte le composizioni presenti in Didi's Feathers. Didi, I love you, hope to see you soon, and anyway, we stay in touch, and when you'll be here, call me, please, chiamami. I will. Allora, Francesco. Grazie Francesco. Thank you so much. You're incredible. Didi, per chiudere questa puntata del soundcheck, you want to introduce What a Wonderful World? Yes. You know, we couldn't do this album, Didi's Feathers, without having the very famous What a Wonderful World that Louis Armstrong recorded and is known all over the world. So when we decided that we were going to do it, I said to Irvin, you know, whoever is going to arrange this, I would like to do it slow as a ballad. And it's a stunning arrangement. It's just a stunning arrangement. And it's Edward Peterson, who is in the band, who did a couple of other of the arrangements on the album. And I love this. I think it gives a new sense to the song, taking it slow. Ecco, quello che hanno fatto con Irving Mayfield è dare un senso nuovo a questa composizione portata al successo da Louis Armstrong, realizzando una ballad meravigliosa che noi vi presentiamo in chiusura di questo appuntamento, e grazie a Didi Bridgewater. Thank you very much, Didi. I love you. Me too. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.